Mi muovo a scatti come un robot, come un robot. Ho tre pistole come Robocop. Mi muovo a scatti come un robot, come un robot. Ho tre pistole come Robocop. Mi muovo a scatti come un robot. Ho tre pistole come Robocop. Mi muovo a scatti come un robot, come un robot. Ho tre pistole come Robocop. Parli di soldi oppure nonno? No, Balenciaga sporche di vernice perché posso. Tony baby boss, faccia d'angelo. Mi viene l'allergia, non metto argento al collo. Bling bling bling, i miei gioielli cantano. Fermato dalle guardie, rispondo non lo so, non lo so, non lo so. Air Force bianca perché vendo quella. I miei cavalli nel rione pronti a prenderla. La tua collana cina, la mia collana brilla. Sanax dentro i miei gista. Oro giallo al collo ma non chiamarci gypsy. Sei solo un povero, non portarmi due spicci. Non chiamarmi se hai le tasche vuote. Non so che dirti, so che compro Balenciaga come fossero calzini. Gang triplo 7, come fossimo già ricchi. La tua ragazza chiama perché vuole fare fitness.